Grazie di esistere. Grazie di esistere. Grazie per la compagnia. Grazie per l'info. Buongiorno, grazie e vi ringrazio per la vostra cortesia e il vostro savoir-faire. E grazie, grazie di esserci. Grazie di esistere. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Oggi non lavoro, allora sai, mi sa che prendo il volo. Olè. Oggi non lavoro, allora sai, non resterò da solo. Oggi non lavoro, purtroppo lo stanno dicendo in tanti, basti pensare all'ennesimo bollettino di guerra dell'altro giorno sull'andamento del mercato del lavoro italiano. Il tasso di disoccupazione è tornato a salire a maggio, al 12,6%, ad aprile eravamo al 12,5%. C'è comunque questo microscopico miglioramento rispetto al massimo storico registrato a gennaio, quando la disoccupazione complessiva italiana era al 12,7%. E la situazione appare sconfortante per le donne, l'aumento del tasso complessivo della disoccupazione è dovuto proprio a loro, perché quella femminile tocca il 13,8% a maggio, il livello più alto dall'inizio delle serie storiche mensili rilevate dall'Istat, cioè dal gennaio del 2004. E vogliamo parlare anche dei giovani. Sono 700.000 i giovani disoccupati, oltre uno ogni 10. I ragazzi in cerca di occupazione sono 11.000 in più nell'ultimo mese e 64.000 in più rispetto a un anno fa. E poi ci sono gli inattivi sotto i 25 anni, cioè quelli che non sono occupati e non cercano lavoro, per esempio, perché impegnati ancora negli studi, sono oltre 4 milioni. Molti di questi ragazzi proprio in questi giorni stanno ultimando l'esame di maturità, o magari molti di questi si sono laureati da poco, si sono messi a distribuire curriculum a destra e a manca, a bussare a tutte le porte nel tentativo di trovare la propria strada. Allora, le donne di Cuore e Denari, una è mamma, una è no, ma ci pensa lo stesso, hanno pensato a loro. E anche oggi andiamo a caccia di opportunità, di idee per collocarsi nel mercato del lavoro ed evitare di candidarsi a vuoto, anche perché capita spesso che il curriculum a pioggia sia l'iniziativa più inutile del mondo, forse meglio scelte mirate e studiate. Ma che cosa si muove nel mondo del lavoro? Quali opportunità di impiego? Come fare matching fra domanda di lavoro e offerte di impiego? Oggi lo chiederemo ai nostri esperti. E invece chiediamo a voi all'800 24 0024 di intervenire se state cercando lavoro, se vi state per laureare, se vi siete diplomati. Iniziate a pensare al dopo, e più che schiarirsi le idee, se sono confuse, qual è il vostro piano d'azione, quali sono i vostri dubbi e qual è il vostro stato d'animo, perché parleremo nel corso della trasmissione anche di questo. Vi sentite disorientati di fronte all'attesa, giornate di inattività da riempire, oppure un po' in ansia rispetto al primo giorno da stagisti, o avete timore di affrontare i colloqui? Allora 800 24 0024, potete come sempre mandarci messaggi al 349 238 6666 e seguirci su Facebook e su Twitter. Le tre regole di lavoro. 1. Esci dalla confusione, trova semplicità. 2. Dalla discordia, trova armonia. 3. Nel pieno delle difficoltà risiede l'occasione favorevole. Albert Einstein. Ho 32 anni, sono alla ricerca di lavoro. Attualmente collaboro in un'impresa di costruzione a 800 euro lordi al mese con partita IVA, iscritta all'albo degli architetti e in Arcassa. Oltre a lavorare, frequento anche un master. Mi piacerebbe lavorare in un'azienda ben strutturata dove ci sia possibilità di fare carriera. Questo perché sono una persona alla quale piace molto impegnarsi e raggiungere sempre nuovi traguardi. Attualmente le opportunità lavorative che ho avuto non me lo hanno hanno permesso, perché erano in realtà sempre molto piccole. Ovviamente non ho solo vagliato questo campo, ma tanti altri, inviando davvero tanti curricula presso istituti privati per l'insegnamento di materie a me affine, grossi studi di architettura e ingegneria, ma sicuramente mai nessuna risposta. Non so più a chi rivolgermi e vorrei capire in che cosa sbaglio. Questa è la mail di una nostra ascoltatrice, Rosa, che ha seguito le nostre puntate sul lavoro, e ieri Deborah, quando hai anticipato il tema, ti ha subito scritto. Si è fatta subito viva e noi la sua testimonianza l'abbiamo voluta sentire e raccogliere dalla sua viva voce, anche perché intanto noi portiamo fortuna e speriamo che le cose cambino presto. Rosa, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, ci ha colpito molto soprattutto come tu concludi la tua mail, nella quale racconti la tua esperienza, la tua preparazione, le modalità con cui ti candidi nelle aziende, ma dici: voglio capire in che cosa sbaglio. È così? Certo, è così, perché cioè, tentativi sono stati fatti, ne ho fatti molti. Spesso, anche quando provo a candidarmi, magari prima in maniera preventiva ne parlo con qualche mia amica, ci confrontiamo, anche quando si stila banalmente un curriculum, per avere un punto di riferimento differente, no? E capire eventualmente se c'è qualche sbaglio, qualcosa da dire oppure da non dire, perché magari effettivamente non è una cosa rilevante e interessante. E quindi c'è sempre questo motivo, dici: ma ne ho mandati tanti, perché nessuna risposta? Alcune volte capita di fare dei colloqui, effettivamente ritengono il profilo interessante, però poi per mille motivi non hai più riscontri, ecco. Mm-hmm. Ecco, perché poi tra l'altro il problema è anche questo: è già tanto che qualcuno ti accolga, che ti senta, che accetti di fare il colloquio, poi però comunque molte aziende spariscono. Cosa cerchi esattamente adesso, Rosa? Tu ti accontenteresti di continuare il tuo percorso professionale, accontenteresti fra virgolette, con partita IVA? Cerchi un'assunzione a tempo indeterminato? Qual è il tuo obiettivo prioritario, principale adesso? Beh, dato un po', diciamo, il periodo, e quindi il periodo dove poi effettivamente tu inizi a lavorare, no? Io parlo della mia esperienza, tu inizi a lavorare e il periodo ti costringe, perché poi bisogna dire le cose come stanno, ti costringe a aprire una partita IVA per lavorare nel mio campo. Io parlo del mio campo, perché questo è quello che conosco. Quindi tu sei inesperto, la tua esperienza te la costruisci così facendo, man mano, nel tempo, però sei già professionista, perché tu ti devi avere una tua partita IVA, devi avere, cioè comunque devi stare ai giochi, no? Alle regole. E però la professionalità te la costruisci dopo. Quindi obiettivamente, dopo pochi anni, perché comunque sono laureato da pochi anni, sì, mi sto professionalizzando, però obiettivamente, se cioè, tu dici: io ne pago tutti gli oneri con Inarcassa, con tutti, ecco, con tutti, esatto, gli oneri professionali, contributivi e quello che c'è, però dici: in realtà non mi sto formando alla pari di un architetto, e quindi questo lo avverti come un po' frustrante, no? Giusto? Esatto. Perché comunque io poi, vabbè, apprendo sempre e ovunque, quindi questo, mi ritengo una persona abbastanza sveglia su questo punto di vista, però certo, effettivamente poi faccio un altro discorso e dico: forse oggi conviene molto di più lavorare in una grande azienda, dove comunque tu lavori, hai i tuoi benefit, nel senso, anche banalmente si parla di un periodo di ferie. Beh, chi è un professionista, il periodo di ferie non esiste. Rosa, non so che cos'è. Rosa, grazie mille. Oggi, in bocca al lupo, Rosa. Bocca al lupo per tutto. Credi. Ascoltaci fino alla fine, vediamo se riusciamo ad essere anche costruttivi per te. Oggi a Cuore Denari noi discutiamo del caso di Rosa, ma di tutte le altre Rose d'Italia, ma anche di Paolo, di Giovanni, di Francesca, di tutti i ragazzi in questa stessa condizione. Allora, ringrazio intanto e saluto per la sua partecipazione Massimo Ferlini, vicepresidente della Compagnia delle Opere. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Allora, le chiedo se sente di essere particolarmente colpito da questa testimonianza, o ne ha già sentite tante come quella di Rosa, perché appunto l'incontro fra domanda e offerta di lavoro è molto in difficoltà. Come fare a far incontrare imprese e lavoratore nella maniera giusta, dottor Ferlini? Voi vi state concentrando molto su questo obiettivo che chiamate il matching, no? Ci spiega di che cosa si tratta? Noi ci stiamo concentrando molto perché di casi come quello di Rosa, che ha appena finito di parlare in diretta, purtroppo ne incontriamo tanti, e raccogliamo questa frustrazione continua che i giovani dimostrano rispetto alle loro aspettative. Trovo che il suo atteggiamento sia uno degli atteggiamenti più giusti che ho registrato, in cui c'è una frustrazione rispetto a quello che ha trovato e nonostante questo una gran voglia di riprovare, di riprovare, di riprovare. Anche perché stare sul mercato del lavoro, anche male, è comunque un facilitatore enorme per trovare modi di passare ad un altro lavoro. Non bisogna sentirsi esclusi dal mercato, perché ci siamo già dentro, bisogna convincerli talvolta del fatto che i loro rapporti amicali, i rapporti sociali che instaurano anche al di fuori del momento in cui stanno cercando tecnicamente lavoro, sono molto utili per trovare sbocchi, anche perché è una fase di grande trasformazione del lavoro. Rosa sta cercandolo in uno dei settori più colpiti dalla crisi. Questo è registrato ovunque, quindi molte delle sue difficoltà sono difficoltà oggettive, non personali. Certo. Dico... Quindi lei intanto quando parla magari di sbagliare in qualche cosa, forse intanto è crearsi un'aspettativa precisa in un comparto che adesso non sta in buone acque. Non è dei più facili. Esatto. Ho seguito per ragioni di lavoro proprio una bottega scuola che nel settore dell'esperienza che Italia Lavoro sta facendo in tutte le regioni italiane, sì. Quelle del settore edile sono quelle che hanno più difficoltà a collocare giovani che hanno formato loro e di cui le imprese dicono evviva, questi sono bravi. La ringrazio per aver ricordato questa iniziativa, perché poi avremo Paolo Reboani, presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro, che proprio a cuore denari, ti ricorderai Nicoletta, aveva parlato di questa iniziativa del ritrovare la manualità, la vocazione artigianale appunto del nostro paese. Io prima di sentire se Nicoletta sei d'accordo, il primo ascoltatore che si è già candidato per intervenire oggi, che è Domenico dalla provincia di Latina, saluterei anche l'altro ospite al telefono che è Federico Vione, amministratore delegato di Adecco. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Perché se parliamo di incontro fra domanda e offerta, parliamo anche di agenzia, appunto, di intermediazione. Dottor Vione, ha ascoltato anche lei la testimonianza di Rosa? L'ho ascoltata assolutamente. Che ci chiede appunto dove sbaglia. In un momento di alta disoccupazione bisogna fare più attenzione a come ci si propone per non essere subito esclusi. Ci sono a volte anche degli errori in cui, che si fanno quando ci si candida per un'opportunità di lavoro. Ci fa un esempio che le viene in mente, anche appunto commentando la testimonianza della nostra giovane ascoltatrice? Innanzitutto credo che Rosa non stia sbagliando, l'unica nota dove forse potrebbe cominciare a sbagliare nel futuro se si dovesse scoraggiare, non ti scoraggiare Rosa, perché comunque la ricerca del lavoro è un percorso, è un lavoro di per sé e credo che la cosa giusta che sta facendo Rosa è certamente focalizzarsi sulle competenze che lei vuole acquisire, quindi focalizzarsi sulla sua crescita personale e professionale e lo deve fare certamente ascoltando le sue ambizioni. Quindi cercando di capire esattamente in che direzione lei vorrebbe andare, cosa gli serve per poter raggiungere quel traguardo, ma anche ascoltando quello che il mercato in questo momento chiede, cosa cercano le aziende, quindi cercare di capire quali sono le competenze effettivamente necessarie in quel settore per riuscire ad essere diverso, quindi a essere spendibile professionalmente. Quindi non stai sbagliando Rosa, è l'inizio di un percorso, non ti scoraggiare, continua, certamente non è semplice, ma è sicuramente possibile. Quello che è il lavoro più duro, ma mi piace invece. Si fa male in uno dei piedi, caliti di alzano di piedi, se ne vale la pena. Si studia per molti anni, poi si esce dalla scuola, dall'università e inizia l'avventura, il viaggio alla ricerca del lavoro e, se possibile, del lavoro che ci piace. Si passa insomma dalla teoria alla pratica, non si è più un ragazzo che studia, ma un ragazzo che cerca lavoro. Vi trovate anche voi all'ascolto in questa situazione? Questo è il momento di intervenire. 800 24 0024 per raccontarci come sta andando, se vi ritrovate nel profilo descritto da Rosa, oppure avete trovato una soluzione. L'abbiamo d'altronde provata tutti, quella strana sensazione che ci porta a vederci uguali ma a sentirci diversi. Molti di noi la stanno rivedendo e rivivendo con i loro figli. Insomma, si potrebbe dire in un certo senso lavorio in corso, intendendo per lavorio quel strano mix di emozioni che trattengono il ragazzo e lo spingono e anche mettono a volte in difficoltà anche i loro genitori che non sanno come aiutarli. Da un lato ci sono i sogni e le aspirazioni aspirazioni, dall'altro sin da piccoli ci siamo sentiti dire, a nostra volta abbiamo detto ai nostri figli che se lo vogliamo veramente possiamo diventare quello che desideriamo, dall'altro invece i ragazzi oggi più che in passato devono fare i conti con una realtà, come hanno già anticipato i nostri esperti, come ci ha raccontato Rosa e dicono i dati, una realtà estremamente difficile. La disoccupazione aumenta, no? Il mondo del lavoro è sempre più esigente, competitivo, emergere sempre più difficile. Allora, sognare o restare coi piedi per terra? Pensare in grande o accontentarsi di fare il primo passo? Estremizzando, questa potrebbe un po' essere la condizione in cui si trovano molti giovani in cerca di lavoro o di un lavoro. Intanto salutiamo il nostro esperto che è qui in studio con noi, è il dottor Luigi Ballerini, medico, scrittore, psicoanalista freudiano, che adesso ha preso l'abitudine di venire a Cuore Denari. Ormai si è affezionato a quella sedia e non la vuole mollare più. E a noi ci fa molto più. Anche questo è un lavoro. In realtà mi sono affezionato. Che ha preso seriamente. In realtà mi sono affezionato a voi. Quella sedia. Così ci piace. Dottor Ballerini. Ma allora, sentendo Rosa, mi stupirei se Rosa si stupisse, perché credo che oggi è bene che noi parliamo anche non solo quelli in uscita, ma anche quelli in entrata in formazione. Allora, se uno adesso fa architettura, lo deve sapere. Per cui la prima questione che poi magari svilupperemo anche in seguito è: io devo sapere in che tunnel mi vado ad infilare. Questo non per scoraggiare, ma perché bisogna avere consapevolezza. Quando io mi sono iscritto io a medicina, non c'era il numero chiuso, 2500 matricole, e l'ordine dei medici quando ho iniziato io a fare la giornalista. L'ordine dei medici faceva sul Corriere della Sera un'intera paginata per dire: non iscrivetevi a medicina. Io mi sono iscritto lo stesso, ho fatto benissimo. Certo. Però c'era in anche noi. Anche perché poi c'era una selezione nel corso dei sei anni, qualcuno si perdeva agli primi anni, aule magne gremite, e poi nel corso degli anni sempre. No, che ci siamo lavorati circa il 30% no, ecco, di quelli infatti, che siamo stiamo partiti. Dicendo per cui. Però ecco, la prima questione è la consapevolezza per chi entra adesso nella formazione. L'altro punto è che i ragazzi che incontro, che vedo scoraggiati, demoralizzati e confusi, sono spesso il riflesso di adulti demoralizzati, confusi e scoraggiati. Allora, l'attenzione che vorrei dare anche oggi è: noi adulti che messaggio diamo a questi ragazzi? Come li aiutiamo a porsi? Quale modalità li aiutiamo? Qual è il modo migliore perché loro si possono porre in modo efficace e fruttuoso? Queste sono questioni che ritengo interessanti, per cui ributto la palla su di noi. Certo. Che cosa diciamo? Dottor Ballerini, noi abbiamo anche sentito la storia di Rosa, tanti curricula, poche risposte, tanti colloqui e nessuna proposta. Accettare il silenzio e i rifiuti è una prova difficile, ma come diceva il dottor Ferlini, è importante rimanere nel lavoro, perché cercare lavoro è un lavoro e rimanere nel lavoro ti permette anche di creare contatti. Però si impara anche dagli insuccessi, ma lei, questo noi diciamo, no? Da genitori, e allora, dato che lei ha proprio proposto un aiuto, una riflessione a voce alta con i genitori di ragazzi in cerca di lavoro, ci aiuti a capire come un ragazzo può imparare dei suoi insuccessi e come un genitore può supportarlo. Allora, gli insuccessi non sono dei fallimenti, per cui bisogna già distinguere questo. Dai fallimenti, dalla percezione di un fallimento si fa fatica a risalire, e da un insuccesso si tratta di capire quali sono le condizioni diverse che io posso porre perché la volta prossima possa andare in modo diverso. Ora, la questione di Rosa, io sono d'accordo con quello che è stato detto prima, l'importante è essere nel mondo del lavoro, ed è importante anche però chiedersi, porsi delle domande: come mi sto muovendo? Perché Deborah ha detto che non è efficace mandare i CV a pioggia, e questo è, no, è, credo, almeno io non avendo bisogno, non è, però immagino che comunque candidarsi con 500 aziende sia inutile. Esatto. Non è efficace. Allora, io credo che noi dovremmo davvero aiutare i ragazzi a chiarire loro stessi qual è la loro proposizione, quella che si chiama la value proposition, qual è il mio valore. E a quel punto aiutarli a targetizzare il loro messaggio, la loro proposizione, in modo che quel matching che abbiamo detto prima tra domanda e offerta sia il più possibile efficace. Quindi non andare a caso, ma anche proprio aiutarli. Poi ne parleremo dopo. Credo che sia straordinaria la questione e l'opportunità data dal network, il network personale, che per un giovane può essere i propri contatti, ma anche i contatti, certo, del papà, della mamma, degli amici, del fidanzato. Direi di cominciare a sentire le testimonianze e le richieste dei nostri ascoltatori. A me quella di Domenico dalla provincia di Latina ha colpito molto. Assolutamente. Domenico, sì. Genitore preoccupato. Anche qua ritorniamo sul fatto, magari ragazzi di 18, 20, 22 anni non ascoltano Radio 24, sono più le mamme e i papà, però ci colpisce che sia ancora una volta un genitore che si preoccupa per la condizione della prole, giustamente. Domenico, buongiorno. Buongiorno a voi signori e grazie per la compagnia che mi fate. Ottimo. Io sono un agricoltore, nella specifica un pastore. Io sono 50 anni che faccio il pastore e vivo nella bella realtà di Latina, nella pianura pontina, una volta palude, bonificata. Adesso siamo ripiombati in una situazione critica. Perché? Io facendo il pastore già 20-30 anni fa avevo capito che per sbarcare il lunario, per cercare di vivere, era da fare filiera corta, cioè produrre e vendere. Questo non ci è stato permesso, signori, questo l'avranno sulla coscienza i nostri politici. Adesso tutti i figli di agricoltori sono a spasso, perché giustamente non ci hanno dato l'opportunità. Io oggi mungo le pecore, domani consegno il mio latte e dopo un giorno il mio prodotto è sulle tavole. Signori, non ci è stato permesso. Adesso ci dobbiamo mangiare la monnezza che viene da fuori. Ecco, Domenico, abbiamo capito la sua contestazione, che è chiarissima. Per quello che riguarda le sue figlie, perché so che lei ci voleva raccontare di loro. Le mie figlie volentieri avrebbero fatto, diciamo, il mio lavoro, diciamo, non pascolare le pecore perché sono donne, ma magari trasformare il mio prodotto, e sono rimaste amareggiate da tutta la burocrazia italiana che mi chiedeva documenti, documentazioni, smaltimenti, una marea di cose che io non mi sono potuto permettere, signora, perché sono un piccolino. Però questa cosa pesa a me come pesa a tantissimi miei amici qui nella città, nel mio vicinato. Tutti i terreni stanno rimanendo incolti in queste generose terre. Le sue figlie cosa fanno, Domenico, adesso? Signori, io lo ripeterò fin quando arriva la morte. Domenico, abbiamo capito, purtroppo non è il tema della nostra trasmissione, lo è indirettamente, vorremmo capire, appunto, le sue figlie non hanno potuto raccogliere l'attività del padre per questo motivo. Cuore e denari. Buongiorno, Sir Cedric. Sono venuto qui perché vorrei tanto fare il pompiere. Cosa ti dicevo? Oh, bravo, bravo! Posso sperare allora? No, l'organico è sempre al completo. Accidenti, che disdetta! Su, su, non abbatterti, caro Grisù. A questo mondo non ci sono solo i pompieri. Ci sono anche i ferrovieri. Guarda questo annuncio sul giornale, cercano giovani macchinisti. Sì, va bene, ma i pompieri sono tutt'altra cosa. Cosa farai da grande? L'astronauta, il medico, lo spazzacamino, il cantante rock, il pompiere come il draghetto Grisù? Chissà quante volte, quando eravamo piccoli, ci è stata fatta questa domanda e abbiamo risposto in questo modo. Adesso che siamo diventati grandi, i nostri figli che sono diventati grandi, come potrebbero rispondere a questa domanda? Probabilmente un ragazzo con il diploma in tasca o una laurea o un master, oggi, appena magari conseguita, potrebbe rispondere: so quello che non voglio, ma non so quello che voglio. Dottor Ballerini, come si esce da questa impasse? È certamente necessaria una plasticità e una flessibilità, perché la questione è sogno, no, sognare o stare coi piedi per terra. Da analista io dico che l'unico sogno che ci conviene fare è quello di notte, ed è un lavoro del pensiero. I sogni ad occhi aperti li chiamo fantasie. Sì. Allora, se per distinguere una fantasia che prodarsi che non sia realizzabile da un qualche cosa che invece può essere concretizzato, è un bel lavoro da fare. Io aiuterei i ragazzi a stare sul dato di realtà, quindi sì, ciò che è realmente, no, ciò che è realmente possibile, stando attenti, però questo è un caveat per i grandi, a non ammazzare le loro ambizioni, perché un conto è essere presuntuosi, e magari anche questo poi dovremmo affrontarlo, perché come si affronta un colloquio di lavoro? Certo. Ho visto dei giovani a volte porsi in state aspettando me. Sì. No? Oppure non mi capiscono perché sono troppo alto. Certamente questo non funziona. L'invito invece sui giovani è essere ambiziosi, perché io ho la massima stima dell'ambizione, in quanto essere ambiziosi vuol dire almeno identificare un ambito. Che torniamo prima col target, con l'idea del target di prima, quindi identificare un ambito in cui io mi muovo, cerco il network che mi può aiutare, cerco di capire quali sono le competenze che magari devo aggiungere, stando attenti poi a non fare di professione master, e poi quello diventa il mio lavoro. Quindi identificare quest'ambito, dove muovermi stando al dato di realtà, e se davvero il pompiere in questo momento storico qui o altrove non mi è permesso di fare, dovrò cambiare strada. Volevo invece commentare, ritornare al caso di Domenico con Massimo Ferlini e Federico Vione, perché abbiamo parlato appunto di un'attività nel settore dell'agricoltura con l'ascoltatore. Lui dice: non ho potuto ereditare questa mia azienda alle mie figlie perché gli oneri che gravano su un'attività di questo tipo sono insostenibili. Però ci sono anche altri casi in cui il matching fra domande e offerta di lavoro non funzionano, perché ci sono delle posizioni difficili da occupare, e qua non parliamo sempre del solito pizzaiolo, no? Quando non ci sono candidati adatti a certi posti di lavoro. Allora, volevo chiedere a Massimo Ferlini, Compagnia delle Opere, anche per carriere un po' più avanzate, quali sono le posizioni che le aziende cercano e che fanno fatica ad occupare? Noi abbiamo dato vita nel corso degli ultimi anni a un sito dove raccogliamo i curriculum delle persone che stanno cercando lavoro attraverso tutte le sedi da CDO d'Italia. Anticipo subito un'obiezione: non chiediamo nemmeno il certificato di battesimo, non solo l'appartenenza, lo facciamo per tutti quelli che vengono da noi a chi hanno un bisogno di lavoro. Anche perché siete tanti, ma siete pur sempre limitati, altrimenti per fortuna il ghetto. Ci sono gli altri. Con questo candidiamo e aiutiamo a presentare bene le proprie competenze. Poi le imprese accedono a questo sito e possono ovviamente caricare le loro richieste, qualora le trovino in evase. Adesso vengo a dire quelle che ancora rimangono in evase, i buchi che ci sono, o trovare invece una risposta a quelle che sono le loro esigenze. Talvolta vi sono posizioni talmente scarse che addirittura con le agenzie private del lavoro collaboriamo direttamente, perché mettiamo in contatto i curriculum o perché forniamo o chiediamo a loro di riempire i buchi che ci sono. Quali sono queste posizioni scarse? Allora, parto da quella che sembra strana, però l'area amministrativa, cioè la segretaria di gestioni amministrative delle aziende, è scomparsa, perché si dava per scontato che non servisse più, e invece le imprese lo chiedono. Anzi, se fosse laureata anche in economia sarebbe anche l'ideale, buchi, o comunque in gestione aziendale. Sono ancora buchi presenti e sono carriere aziendali vere, perché poi uno cresce con l'azienda. E può essere l'azienda. Un posto occupato anche da un uomo, possiamo dirlo? Assolutamente, perché la segretaria... Sì. Perché magari lo si guarda con un po' di... No, è un lavoro, anzi, più crescono alcune competenze e meglio è, e sono assolutamente bisex la posizione lavorativa. La segreteria di amministrazione. Vi sono alcune posizioni invece più maschili, che sono operai specializzati nel settore della meccanica. Noi raccogliamo più domande e offerte di lavoro, diciamo, dall'area delle regioni del nord, e qui per presenza associativa, e quindi emerge questo. Queste posizioni di lavoratori specializzati invece sono molto richieste e talvolta ancora scoperte. Tornitori, attrezzisti da banco, ecco, questi sono lavori. Posso aggiungere quelli che sono i lavori che ci vengono sollecitati attraverso la rete delle scuole di formazione professionale, tutta l'esplosione di cuochi, gestori di sala, gestori, baristi e così via, è una domanda crescente, anche perché cresce, poi uno pensa a MasterChef. Aumentano invece anche le mense, quindi magari fai il cuoco per 3.000 pasti tutti i mezzogiorno. Invece non che è, andare appunto al ristorante di questi grandi cuochi. Però questo è crescente. Servono tagliatori per sartoria maschile. Qui è un settore dove gli uomini non ci pensano, perché la moda viene letta al femminile. È vero. La sartoria maschile ha bisogno di braccia che non si trovano sul mercato e c'è poca formazione, ma anche la nostra scuola di oreficeria ha un collocamento alla fine del corso che supera il 70%, e uno non ci pensa, siamo in un settore artigianale tradizionale di grande esperienza. Tra l'altro lei ha citato un'altra parola chiave, che è quella della formazione, della quale parleremo dopo, perché magari qualcuno che insiste a cercare un'occupazione e non la trova, magari a un certo punto può incontrare sulla sua strada invece un corso di formazione professionale che gli dà la svolta. Aggiungere un solo esempio, questa esperienza le facciamo esplodere a novembre nel matching, che è un'iniziativa in cui noi mettiamo a confronto le imprese e così via, perché quest'anno creiamo un'occasione di incontro domanda-offerta di lavoro. Ci saranno le grandi agenzie del lavoro, ci saranno i soggetti che cercano, ma questo è perché riprende esperienze che in alcune realtà della CDO vengono fatte, di portare chi attraverso di noi sta cercando lavoro ha un confronto diretto con le imprese che hanno bisogno di assumere, anche per convincere molti a fare quel passaggio di realtà, bagno di realtà che veniva richiamato prima, che sei poi disposto però a cambiare la tua professione, perché ce ne sono altre che si stanno sviluppando, hai un percorso da fare, magari di adeguamento delle competenze individuali, ma sei davanti a gente che se dici di sì ti assume lì. Infatti. E questo è... È facile questo, lo volevi chiedere al dottor Ballerini. Il dottor Ballerini vedo che voleva intervenire, mi sembra che la parola chiave sia flessibilità, dottor sì, Ballerini. Sì, no? Che noi interpretiamo sempre nell'accezione negativa. Flessibilità e plasticità. E no? Plasticità. Senso, la possibilità. Mi interessa però il discorso che è appena stato fatto, perché andiamo ancora indietro, per cui pensiamo a chi ha dei figli che sono usciti adesso dalla terza media. Noi abbiamo assistito in questi anni a una licealizzazione forzata, sì. Per cui la scuola di serie A è il liceo, poi c'è un serie B che è il tecnico e poi c'è un serie C che è professionale. Abbiamo creato una situazione per cui di fatto invece c'è bisogno di professioni. Allora aiutare anche i più giovani come genitori a non considerare un di meno andare sì. a fare attività di questo tipo, ma a scoprire che si può fare una formazione qualificata, importante, che poi può dare un rapido accesso al mondo del lavoro con soddisfazione, è un qualcosa che dobbiamo tenere presente, quindi non solo scientifico classico. Federico Vione, amministratore delegato di Adecco, torno a lei perché voi avete offerto una sorta di assaggio di sogno ad alcuni giovani, 5 per la precisione, la possibilità di lavorare per un mese in una grande azienda. L'iniziativa si chiama Adecco Experience, ce la racconta? Adecco Experience ha proprio questo obiettivo, cercare di allenare, comunque creare una cultura di ricerca al lavoro in maniera innovativa. Abbiamo voluto identificare 5 giovani che sono stati selezionati in maniera molto, molto nuova, quindi tramite i social network. Il primo processo, i primi step, dovevano semplicemente predisporre un video di 30 secondi nel quale dovevano semplicemente dire perché loro, quale fosse il loro talento, perché loro sono la persona giusta per entrare nelle aziende che hanno sposato il nostro progetto, che adesso vado a nominare. In seguito sono stati inseriti in processi di assessment e da 100 giovani a 100 giovani talenti in tutto il mondo noi daremo la possibilità di un mese di lavoro all'interno di aziende. Quindi in Italia, 100 in tutto il mondo e 5 in Italia. 5 in Italia. Abbiamo 5 aziende, nostre clienti, nostre partner, che sono Italy, credo famosissima sì. Nell'ambito d'Eco, Lombardini Group, NH Hotel, Indesit e Maier Technimont, hanno sposato il progetto e hanno dato la possibilità a ospitare, offrendo appunto un lavoro di un mese a questi 5 giovani. Quindi hanno avuto la possibilità di sperimentare il processo di selezione, di mettersi alla prova, di capire come funziona e di fare un'esperienza concreta in contesti avvincenti. E quindi tutto partendo peraltro dal social network, che mi pare anche una evoluzione e rivoluzione molto interessante. Cuore e denari. Dio mio, che notizia! Che meraviglia, Ugo! Certo! Dunque, Pina, ti confesso che sono felice. Dunque, la direzione dell'Hotel Caprice mi ha chiamato in previsione dell'avvento della lira pesante. Questi vogliono modificare tutti i loro listini, vale a dire tutto il prezziario, per esempio, i menu, i listini della biancheria, insomma, tutta la loro contabilità. È un lavoro assolutamente delicatissimo e di grandissima responsabilità. Io devo, con un pennarello, cancellare gli ultimi 3 zeri. Eccoci qua, siamo tornate, oggi si lavora, si cerca lavoro, si cerca di dare un aiuto ai ragazzi che spesso sono un po' demoralizzati, mandano curricula, molti non ricevono risposte, si muovono, ad alcuni invece va bene. Parleremo anche insieme al dottor Ballerini dell'effetto tempo, dottor Ballerini, il tempo che un ragazzo che ha finito un ciclo di studio, ha completato l'università, ha fatto un master, si trova un tempo davanti. E a proposito di tempo, vorrei tempo di presentare sì, le nostre ospiti, molte donne peraltro, perché abbiamo interpellato naturalmente alcune delle persone, giovani persone, che sono riuscite ad aggiudicarsi una di queste posizioni proposte appunto dall'iniziativa Adecco Experience. Allora iniziamo a sentire la testimonianza di Allegra Guardi, dico nome e cognome perché tanto comunque protagonista di una cosa molto positiva, di Firenze. Allegra, buongiorno. buongiorno. E complimenti. Allegra lavorerà nel marketing, nel dipartimento marketing presso Lombardini Group. Allegra, cioè, qua avevamo preparato una scaletta dandoti del lei, ma mi viene un po' da sorridere, perché tanto sei ancora studentessa, giusto? Sei ancora studentessa tu. Di un master a cui mi sono iscritta recentemente. Ecco, ma ti aspettavi di riuscire a come dire, raggiungere un traguardo di questo genere in un momento in cui magari molti tuoi amici ti raccontano invece di grandissime difficoltà? È stata sicuramente una grande sorpresa e una grande soddisfazione. Devo dire che ho apprezzato molto l'iniziativa d'Ecco e anche la modalità di selezione un po' originale, che però ci ha permesso di uscire dagli schemi e anche di concentrarci davvero su quello che l'amministratore delegato ha espresso come un semplicemente perché loro. Ecco, in realtà è stato un lavoro non così semplice, ma molto molto importante, quello di cercare di capire le proprie caratteristiche peculiari. Tu hai fatto il video su Facebook? Ho fatto il video, sì, in realtà su YouTube più che su Facebook. Ah, ecco, esatto, poi. Perfetto. Allegra, bocca al lupo per tutto, grazie per la tua testimonianza. Vuoi dare due suggerimenti a qualche tuo... Anche perché Allegra è donna. Abbiamo sentito nei giorni scorsi i dati proprio della disoccupazione femminile volevo chiedere proprio ad Allegra se ha sentito una difficoltà maggiore e, come dice Deborah, se quindi puoi dare qualche consiglio alle ragazze che ci stanno ascoltando. Dunque, io diciamo che nella mia esperienza lavorativa, per fortuna fino ad adesso, non ho avuto delle discriminazioni in quanto donna. Casomai ho avuto delle difficoltà in quanto giovane, nel senso che si tende a trovare un mondo che per certi versi un po' si approfitta dell'inesperienza dei giovani e quindi si propongono contratti abbastanza ambigui o comunque situazioni di lavoro un po' più complicate, puntando sul fatto che i giovani ancora non sanno bene come porsi, magari non hanno una completa consapevolezza dei loro diritti, oppure ce l'hanno ma hanno timore che a cercare di farli valere semplicemente verranno scartati e verrà scelta un'altra persona. E quindi sono state più che altro queste le difficoltà che ho incontrato. Allegra, grazie, in bocca al lupo per tutto. Divertiti in questo mese, naturalmente trai tutti gli spunti positivi possibili. Ma stavo pensando, Massimo Ferlini, com'è possibile che nel 2014 si presenti un problema donna nel mercato del lavoro? Beh, noi scontiamo, lasciando da parte i pregiudizi, le gravidanze, i permessi del lavoro. No, vi è una grave situazione che spacca il paese in due. Partiamo da questo dato. Nelle regioni del nord siamo vicini al 60%, che era l'obiettivo europeo di tasso di occupazione femminile, cioè la partecipazione attiva al lavoro. Poi che si trovi lavoro, c'è la crisi, non si trova lavoro, ma abbiamo dei dati invece nel sud veramente tragici, siamo sotto il 40% in alcune regioni. Cioè, lì scontiamo però anche una situazione contrattuale e fiscale di ritardo nel prendere atto che a molte famiglie che hanno redditi minimi nel sud non conviene andare a lavorare in due, perché il fisco porterebbe via più di quanto entrerebbe in famiglia. Quindi la manovra dovrebbe essere più complessa. Un approccio olistico, come si direbbe in termini medici, Nicoletta. Ecco. No, anche perché se no si rischia di dire è un problema delle donne che non vogliono lavorare. No, lì è la politica familiare che mi pare arretrata e che non tiene conto di tutti gli aspetti del problema. Questo... Dottor Ballerini, lei che ne pensa? Riguardo a questa differenza di genere, perché Allegra ci ha raccontato, ha subito sottolineato, non mi sono sentita discriminata, ma non vogliamo porre l'accento su questo aspetto, dottor Ballerini. Ma non c'è nessun motivo per discriminare. Infatti, per cui non mi stupisco che, no. Che lei non sia discriminata. La questione è che ciascuno di noi si pone come soggetto nel lavoro. E allora, come soggetto, che poi sia maschio o femmina, la questione è che cosa offro e che cosa ricevo. Allora, noi non siamo portatori di diritti in quanto appartenenti a uno specifico genere, siamo portatori di diritti in quanto soggetti. Allora, il pormi come una lavoratrice, io non sono una donna lavoro, io sono una lavoratrice e sono a pieno titolo come un lavoratore. Allora io credo che di là dalle situazioni che poi diventano aberranti, dove c'è davvero un contesto che non facilita, la differenza la faccia il soggetto e come si pone sul lavoro. Allora la coscienza e la consapevolezza di sé, del proprio valore anche da giovane, senza diventare presuntuosi, è ciò che farà sì che una persona formata e competente, sia uomo sia donna, se la incontro me la tengo. Volevo salutare adesso Mariangela Pecora, responsabile delle relazioni sindacali, selezione e gestione del personale di NH Hotel Group Italia. Buongiorno dottoressa Pecora, benvenuta. Buongiorno. Perché anche in questo caso appunto parliamo di un altro soggetto che si è ricavato uno spazio in questa iniziativa ad Eco Experience, e il gruppo NH metterà a disposizione appunto un'esperienza di un mese per una delle ragazze appunto lo stesso hanno partecipato a questa iniziativa. Una grande catena del settore alberghiero, sono tanti i giovani che cercano lavoro nel vostro settore, dottoressa Pecora? Ma guardi, il settore turistico attrae molto i giovani. E che è successo al telefono? Mannaggia, adesso che stavamo dicendo una cosa interessante, niente, la ripeschiamo. Dottoressa, eccoci qua. Che è successo? Mi sente? Sì, adesso sì. Non lo so. È successo. Allora, ricominciamo da zero. Il settore turistico. Il settore turistico attrae molto i giovani. Stavo appunto dicendo che ci sono degli istituti scolastici come le scuole alberghiere o anche delle università che già indirizzano i ragazzi verso il nostro settore, per cui è una scelta che per alcuni viene fatta già in giovane età. È chiaro che poi il settore turistico è molto ampio, quindi è diversificato. Il mondo alberghiero in particolare ha delle proprie peculiarità che magari non tutti riescono a cogliere. Si lavora quando tutti sono in ferie, per esempio. Esattamente. Cioè io dico sempre, l'unico posto di lavoro in cui che è aperto 365 giorni all'anno, 24 ore su 24, per cui anche Radio 24, bene, guardi. Anche gli ospedali, direi, no? Tanto per dire la donna, quindi, per fare la donna di cuore. Quindi questo ancora un po' è visto come però dire. Però magari, esatto, questo è un aspetto che i giovani non riescono a cogliere durante la fase di istruzione, e quindi poi si scontrano un po' con un mondo del lavoro diverso da come se lo aspettavano, e può creare appunto qualche delusione. In generale comunque posso dire che sul settore e anche insomma sul nostro mondo dell'alberghiero c'è molta attrazione, riceviamo tantissimi CV. Avete qualche posizione disponibile da suggerire ai nostri ascoltatori che sono alla ricerca adesso, dottoressa Pecora? Magari qualche località d'Italia in cui cercate e non trovate? Noi sul nostro sito abbiamo sempre delle pubblicazioni vive, e tenga presente che almeno circa un 5, 6, 7 al mese ci sono sempre, che vanno anche da posizioni di stage, ma sono assolutamente stage finalizzati a introdurre i giovani nel mondo del lavoro, ad altre posizioni di hotel come ricevimento, addetti al ricevimento, camerieri di sala. Questo, il turnover da noi è molto alto, quindi spesso abbiamo bisogno di questo tipo di professionalità. Grazie a Mariangela Pecora. Vedevo un po' che scuoteva la testa Ferlini, ma non so per quale motivo. No, è solo un'osservazione tecnica. Sì. Lo stage, che ha presentato giustamente come un inserimento al lavoro, sì, perché viene usato così, non è un contratto di lavoro. Dovrebbe servire ai giovani per fare un'esperienza lavorativa durante il periodo. Dovrebbe, ma l'ho richiamato perché spontaneamente un'impresa dice lo uso per quello, forzando un istituto che invece non è finalizzato a quello. E poi abbiamo situazioni in cui allora confondiamo precarietà e flessibilità con dati negativi e non esigenze invece con cui dare tutele a tutti. Posso sentire dallo se Federico, studente agli adulti. Se Federico Vione è d'accordo con lei, dottor Vione, però insomma anche voi credo che abbiate richieste dalle aziende di posizioni di stage dalle quali partire, perché poi altrimenti le aziende neanche si candidano, no? a presentare le loro richieste di profili. Assolutamente, lo stage deve svolgere il suo ruolo nel mercato del lavoro, di quello che far conoscere, far toccare e far avere delle esperienze concrete ai ragazzi, contestandosi all'interno di un ambiente che è diverso rispetto a cui loro sono abituati. Quello deve essere l'obiettivo, quindi puramente formativo, e devo dire che tantissime sono le aziende che lo interpretano esattamente in questo modo, in maniera sana. Diversamente poi ci sono delle strumentalizzazioni, ma non possiamo fare delle eccezioni, diciamo così, una regola. Certo, allora magari prima di salutarci facciamo un saltino a Padova, sì, perché esatto, c'è Gioacchino, forse non ce la facciamo, ma sentiamo magari solo la voce lui di Gioacchino. In 10 secondi ce la buongiorno fa. Gioacchino, consiglio ai laureandi. Buongiorno a Buongiorno a tutti. Veloce. Mi sentivo di dare un consiglio a tutti i laureandi. Sì. Noi abbiamo uno strumento che secondo me non è per niente utilizzato, che è quello, lo stage all'interno dei corsi di laurea. Viene spesso utilizzato in modo sbagliato, cioè all'interno delle università stesse, e invece dovrebbe essere usato come punto di contatto, come primo punto di contatto appunto con le aziende. Quindi consiglio a tutti i laureandi, fate lo stage a livello di un'azienda, anche se è più difficile da organizzare, fate stage all'interno delle aziende. Gioacchino, grazie. Grazie Gioacchino, buona giornata. Cuore e denari. Quando ero ragazzo esisteva una meravigliosa rivista che si chiamava The World Art Catalog. Fu creata da Stewart Brand. Nell'ultima pagina dell'ultimo numero c'era la foto di una strada di campagna al mattino presto. Sotto la foto queste parole: Stay angry, stay foolish, siate affamati, siate folli. Io l'ho sempre augurato per me stesso. E adesso che vi laureate per cominciare una nuova vita, lo auguro a voi. Stay angry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. L'indimenticabile discorso agli universitari di Steve Jobs. Non è sempre facile però trovare l'energia e l'ottimismo di queste parole ormai famosissime. Noi continuiamo comunque, supportati anche da questo ricordo, a parlare di lavoro a Cuore Denari fino alle 12.30. Siete in un momento di entusiasmo e curiosità, oppure sta prendendo il sopravvento un po' di ansia, o peggio un senso di rinuncia, come molti ascoltatori ci stanno raccontando al 349-238-6666, ma anche all'800-24-0024. Cercheremo di darvi stamattina risposte concrete per affrontare tutto questo. E certo, perché i giovani che non trovano lavoro sono in difficoltà, dottor Ballerini, perché l'attesa snerva e se si prolunga mette anche un po' tutto in discussione. Il morale scende a terra, l'autostima vacilla, subentra il pessimismo, che è una strada molto pericolosa perché si può incrociare con quella che si intitola "gli altri non mi capiscono, sono troppo competente per essere apprezzato". Ma è importante rimanere ambiziosi, come ha suggerito lei, ma non evitare di diventare invece presuntuosi. E un altro spunto potremmo dare ai nostri giovani: allargare un po' lo sguardo. Quello che non si trova qui potrebbe trovarsi altrove. È proprio così. Allora, uno, la questione dell'umiltà. L'umiltà vuol dire essere consapevole di quello che so, di quello che ho studiato, di quello che ho imparato, ma anche vedersi in una curva di apprendimento. Allora, sapere che io mi situo a un certo punto di questa curva di apprendimento dove imparerò anche dagli altri. Allora, la questione dell'umiltà è il pormi sul posto di lavoro cercando di essere affamati di tutto ciò che mi può arrivare di buono da lì. E allora anche qua di nuovo la posizione del soggetto. È un po' difficile per un ragazzo che magari ha fatto stage su stage, formazione, master, perché ormai molti ragazzi scelgono questa via, arrivano a 30 anni, sono super specializzati, ma allora, passano da un corso ad un altro. Rischiando persino di diventare antipatico, dico, è difficile perché si è illuso questo ragazzo, ossia si è illuso che aggiungere master, competenze, titoli, formazione, poi faccia davvero la differenza. Va bene il master, va bene la formazione in più, purché sia mirata, vada su un obiettivo, ma che non sia riempire quel tempo che resta vuoto dalla mancanza di lavoro. La questione invece del guardare oltre gli orizzonti, quando io sento dire non c'è lavoro per gli archeologi, conosco questo giovane laureato in archeologia, non c'è lavoro qui, forse non ci sarà lavoro negli scavi di Volterra, ma ad esempio ha scoperto che in Australia c'è tutto un filone di archeologia in cui i nostri studenti e anche laureati sono ricercatissimi, come il settore chimico negli Emirati. Allora non è da tutti andare via, ma è da tutti almeno porsi la questione. Quindi non c'è lavoro, è sempre non c'è lavoro qui. L'apertura che può esserci, andiamo a vedere dove c'è questo lavoro. Fiorella Palmieri, Nicoletta, ha studiato scienze geografiche, ma per un mese adesso, sempre grazie ad Adeco Experience, ricoprirà il ruolo di assistente di direzione presso lo Store Italy a Roma. Oh, magnifico! E noi, Fiorella, ti invidiamo tanto. E ti verremo a trovare. E ti veniamo a trovare. Fiorella, buongiorno. Ti faccio una domanda che fa un ascoltatore al 349-238-6666. Mi spiegate come fanno ad essere entusiaste per un mese di lavoro che non fa né curriculum né esperienza? Tu sei contenta di questa opportunità? Ma io sono contentissima, perché non è assolutamente vero che non fa esperienza e che non fa curriculum. E poi il curriculum sì, è importante, ma l'esperienza ancora di più. Io già in 3 giorni, oggi è il 3° giorno di lavoro. È vero, perché avete cominciato il 1° luglio, sì. Certo, ho imparato tantissimo e sono entusiasta. Poi è un ambiente che a me interessa, perché io mi interesso del food, ho anche un food blog, quindi è un ambiente che per me è molto stimolante. Ho imparato, cioè, più di quanto pensavo di poter imparare in questi 3 giorni. Dimmi che cosa hai imparato, perché mi viene la curiosità. Sì, intanto è già allora, fuori col telefono con la radio, poverina. Ecco. Allora, ieri per esempio, io adesso per una settimana sarò in tutti i reparti prima di salire su negli uffici. Ieri sono stata con la responsabile dei ristoranti di Italy, che gestisce tutto. Italy è una grande famiglia praticamente, ma ha diversi ristoranti, e per tenerli insieme, per tenere insieme tutto il personale, per far rispettare anche delle piccole regole, che poi sono le regole che ci possono essere proprio normalmente in una famiglia, ci vuole veramente molta, oltre che molta costanza, ma ci vuole una passione per questo lavoro che è inimmaginabile, perché si sta sempre in giro come delle trottole e si deve far funzionare tutto. Oggi per esempio sono nel reparto macelleria, cioè io praticamente ho imparato delle cose sul settore delle carni. Sui tagli di carne che tu non avresti mai immaginato. Ma non sui tagli di carne, cioè su come praticamente noi non sappiamo riconoscere quando un tipo di carne va bene o no, nel senso non distinguiamo magari un allevamento sì, che è fatto naturalmente da uno che compriamo nei supermercati e che magari ci costa di più, ci costa di meno, probabilmente a sapore pure più buono, ma non sappiamo quello che mangiamo, no? Quindi vedi, la qualità, sta imparando la qualità, non e lo fa con entusiasmo, perché ha bisogno dello stipendio mensile, che avrà sicuramente bisogno, per carità, non era un commento denigrativo, ma insomma Fiorella veramente ha colto l'essenza, no, di questa esperienza. Fiorella, in bocca al lupo per tutto. Certo, crepi. Grazie. Crepi a voi. Allora, qua i messaggi sono tanti. Allora, qua dobbiamo dare soprattutto il sito. Esatto, allora intanto CDO, Compagnia delle Opere, senza certificato di battesimo, possiamo candidarci ai vostri siti. Dovete entrare su Job Genius. Job Genius, scritto tutto attaccato. Perché voi ne avete due in realtà di filoni, no? C'è quello dove si, come dire, candidano le aziende, tra virgolette, e l'altro invece dove si candidano. La funzione è doppia: una si inserisce il curriculum, è meglio se passa attraverso la sede della Compagnia delle Opere, perché c'è un'assistenza per migliorare la descrizione delle proprie competenze. Tanto il suo ufficio stampa mi diceva, specifica bene, che non è una mera compilazione di dati. No, esatto, proprio per questo, perché il curriculum troppo spesso, soprattutto quelli messi online, rischiano di non dare l'idea di quali sono poi le capacità della persona, che vanno oltre quello che è il titolo di studio, raccontare anche le esperienze talvolta fatte magari con volontariato. Ecco, il volontariato conta moltissimo, momenti vero? Di vita diversi contano molto di più per conoscere la persona. Nello stesso sito le aziende invece possono individuare, leggere quindi le persone che si candidano a lavorare, e trovano anche assistenza per il tipo di contratto migliore per l'inserimento lavorativo. Volevo sentire anche Federico Vione ad Adecco. Una volta terminata appunto l'operazione di quest'anno Adecco Experience, probabilmente ne preparerete un'altra, ma ci dica un po', andando attraverso i vostri canali, quali sono le professioni richieste in questo momento, dove facciamo andare i nostri ragazzi ad ascolto questa mattina che vogliono un'indicazione concreta? Allora, concretamente basti pensare che negli ultimi 10 anni le ricerche di lavoro sono stravolte, le figure che oggi vengono richieste sono completamente diverse, non esistevano solamente 10 anni fa, quindi il mercato del lavoro è continuativamente in evoluzione, bisogna saperlo ascoltare, quindi è giusto avere la curiosità di scoprire quali sono i nuovi trend. Oggi si parla molto di social networking, quindi ci sono nuove figure come il digital marketing, la reputation, social reputation, qui le aziende si stanno interrogando come porsi nei confronti di questo nuovo mondo che le sta trasformando profondamente. Hanno bisogno di giovani in questo ambito, perché sono loro che detengono anche l'approccio giusto verso questi nuovi strumenti, che hanno un potenziale veramente molto ampio. Poi ci sono le figure classiche come gli ingegneri, no? Che sempre continuano a essere richiesti e sono sempre troppo pochi rispetto a un settore, quello dell'ingegneria in Italia, che è molto ampio, e addirittura ci sono richieste anche che provengono dall'estero, quindi aziende tedesche che ci richiedono ingegneri italiani perché effettivamente si distinguono, quindi le nostre università, molto spesso criticate da questo punto di vista, vengono considerate un riferimento all'estero. Chi invece Vione respingete proprio con gravi perdite? Purtroppo le facoltà umanistiche hanno veramente scarse possibilità nel mercato del lavoro. È proprio sintetico, ma molto, molto efficace. Speriamo che qualcosa si recuperi. Sì, però, perché ci si può anche un po' reinventare. Se qua da noi il turismo Ballerini prendesse. Ci sono dei direttori di personale che vengono da lettere o da filosofia, dottor Ferlini. Assolutamente. Sì. Quindi io non massacrerei sempre. No, assolutamente comprendo che cosa il messaggio del dottor Vione. Certo. Però anche perché ci saranno tanti genitori all'ascolto, alcuni ci hanno scritto: mio figlio ha fatto filosofia, mia figlia ha fatto comunicazione, che cosa me ne faccio di mio figlio che ha fatto lettere? E adesso che ci sono, dobbiamo, lì il gioco si fa duro, ma un'indicazione si può dare, ad esempio visitare qualche sito e poi? Beh, innanzitutto l'indicazione è che cosa se ne farà lui della sua laurea, non cosa me ne faccio io genitore, perché anche qua a un certo punto bisogna davvero convincere, quando c'è bisogno, che sono loro i protagonisti. Quindi la prima cosa che io desidero da mio figlio è che prenda iniziativa. Allora l'aiuto non è a dirgli: ma cosa hai fatto filosofia, adesso cosa ti serve, cosa farai, ma è spingerlo a prendere l'iniziativa nel campo che lui conosce, perché magari il genitore non lo conosce. Certo. L'altra questione è che se io ho deciso di investire tempo e passione studiando certi argomenti, probabilmente ho anche capito in quali settori posso andare a applicare quelle competenze e gli argomenti che ho studiato. E se proprio non ci riesco, allora si tratta di allargare il campo fino a identificare, di intercettare tutti i possibili soggetti che sono interessati a queste competenze, che a volte diventano trasversali. Tutto il campo dell'HR può essere interessato all'area della filosofia, ma c'è anche il contrario. Banche, so di molti laureati in fisica che vengono assunti dalle banche, sì, sì. No? E uno dice: allora cosa ho fatto a fare fisica? Io ho conosciuto un dirigente di una grande compagnia di assicurazione che è un ingegnere e adesso fa il capo della rete degli agenti di assicurazione. Ferlini, posso dire in una battuta, però noi siamo un paese dove la gente studia ancora troppo poco, oltretutto. Quindi io, guardi, lei sembra mia mamma. No, io c'è la stessa cosa, peccato che era così. No, sono i numeri, lo dico per i numeri. Noi studiamo poco e lavoriamo poco, nel senso, non perché manca anche il lavoro, quindi, però sui grandi numeri è un paese dove potremmo lavorare di più e studiare di più. Io vorrei vivere in un paese dove è laureato il mio pizzaiolo preferito, perché lui avrà un'occupabilità migliore e farà meglio il suo lavoro, anche se laureato in lettere. Questo è. No, tra l'altro lei dice una cosa originale, perché dell'high school invece americana ha un'idea completamente diversa, dove si sostengono gli esami tutti per iscritto. Vedi? Invece qua il fatto di farli per esempio con la modalità orale, si studia molto di più, si impara anche a parlare in quindi, punti di vista. Allora, voglio leggervi il messaggio di Matteo. Laurea in filosofia, un master in organizzazione, aperto una mia società grande. Leggi un po' il fatturato. No, tu, perché io non l'ho perso, me la son perso. Matteo, l'anno scorso ha fatturato 104K, scrive, di fatturato, che è un bel Chissà che cosa ha fatto. Un altro invece ci ha scritto: proprio per il fatto che non è occupato, ha un casolare di proprietà della famiglia, con suo fratello vorrebbe questo utilizzare. Questo dice Fandogne, ci scrive Gianni. Vabbè. Salutiamolo Gianni. Questo ragazzo dice: io vorrei capire come poter, a chi potermi rivolgere per poter fare non so che cosa con questo immobile, bed and breakfast, non so cosa, e quindi non abbiamo soldi per ristrutturarlo, cerchiamo anche bed and breakfast, altre cose, o cose analoghe, sono sempre di legislazione regionale, perfetto, quindi la regione è il primo interlocutore. Male ha fatto Gianni a classificare subito come fandonie. Bravo, io l'ho letto per questo. Male ha fatto, perché abbiamo bisogno di storie di successo. Abbiamo bisogno anche di sapere che è possibile, abbiamo bisogno di sapere che se ci si muove nel modo giusto, con i contatti giusti, con il network, con le competenze, con le iniziative, l'intraprendenza personale, poi si può riuscire. Allora benvengano queste storie che ci dicono è possibile, non sei uno sfigato perché sei laureato in filosofia. Ecco, anzi, qua, raccontateci ancora le vostre storie, potete postarle naturalmente sulla pagina di Cuore Denari. Vogliamo un pochino ricaricarci con delle storie di ordinaria quotidianità che diventano di successo. Sai dove ne raccolgono tante di queste storie? Nella prossima settimana, da giovedì a Montepulciano, parte una bellissima iniziativa che si chiama Luci sul Lavoro ed è organizzata da Italia Lavoro, società del Ministero del Lavoro, quando il pubblico fa un ottimo lavoro, tanto per utilizzare in maniera ridondante ad usare questa parola. Paolo Reboani, presidente amministratore delegato di questa società, buongiorno. Buongiorno a voi. L'ho presentata bene, hai sentito come sono stata brava. No, tanto per dire, ci scherzavamo un po' ieri con Nicoletta, magari diciamo a questi ragazzi, se avete 2-3 giorni liberi, state senza far nulla, un paio di giorni a Montepulciano, no, è giugno, non è neanche altissima stagione, magari si trova anche un bed and breakfast a spendere poco, ma si vede un po' che aria tira. Ma certamente l'intento che noi abbiamo messo in piedi è quello di una massificazione molto aperta all'esterno, quindi dove il punto principale è parlare con le imprese, con le associazioni e con i giovani, cioè parlare con i cosiddetti stakeholder di un'agenzia come Italia Lavoro, che deve promuovere l'incrocio tra domanda e offerta, cercare di offrire maggiore fluidità al mercato e far sì che le scelte educative e formative si indirizzino sulle imprese. Tra l'altro, quindi, Presidente, abbiamo citato in apertura di programma la vostra iniziativa sui mestieri artigiani. Come sta andando? Quella è andata molto bene, si è conclusa, è stata una grande esperienza di successo. A Montepulciano ci saranno molte di queste imprese per parlare, per fare il punto della situazione, ed è talmente andata bene che oggi molte regioni nell'ambito del programma Garanzia Giovani stanno mutuando l'iniziativa che noi avevamo promosso. Quindi da questo punto di vista Montepulciano è un'iniziativa importante per tutti i giovani che sono lì intorno, è anche un modo per vedere che cosa significa Garanzia Giovani, che cos'è l'ingresso nel mercato del lavoro, che cos'è il contatto con le imprese. Benissimo, grazie a Paolo Reboani, citato Garanzia Giovani, peraltro il programma che è partito per i ragazzi che non hanno lavoro in questo momento, che non sono impegnati in percorsi formativi, in percorsi appunto di formazione. Il programma è partito il 1 maggio, al quale si sono iscritti fino al momento 100.000 giovani, molto contestato questa mattina in un editoriale di Maurizio Ferrera sul Corriere della Sera. Noi non siamo d'accordo tantissimo su quello che scrive, perché quantomeno c'è qualche cosa da fare, no? Poi dopo si può contestare tutto su come le regioni useranno le risorse che l'Unione Europea mette loro a disposizione, però intanto questa iniziativa c'è, speriamo che questi 100.000 giovani vengano chiamati entro 4 mesi dall'iscrizione da qualcuno che li formi e che li collochi in qualche modo. Nicoletta. Andiamo a Padova, certo, perché c'è Marco. Buongiorno Marco, benvenuto. Grazie. Sa che la sentiamo un po' malino, Marco? Eventualmente a togliervi la voce in caso. Ecco, bravo. Questa è un'ottima idea, Marco. Ok. Eccomi qua, mi sentite meglio? Sì. Allora, sostanzialmente io volevo riportare la mia personale esperienza nel mondo del lavoro, perché sostanzialmente io ho fatto parecchia esperienza proprio pratica con il lavoro, perché fin da giovane, comunque intorno ai 16 anni, ho fatto delle esperienze di lavoro nelle fabbriche, quindi lavori estivi. Ho lavorato anche durante, per esempio, gli anni scolastici delle superiori. Ho fatto tantissimi lavoretti e lavori più o meno importanti che mi hanno sicuramente dato una fortissima esperienza. Sì. E questo mi ha aiutato per esempio nella ricerca del lavoro che sto attualmente facendo di marketing operativo, di cui mi occupo, e in questo sicuramente ha avuto una grande valenza l'esperienza che ho avuto in passato. Insomma, l'esperienza paga e forma. Certo. Assolutamente sì. Marco, il suo intervento era per raccontarci un po' la sua esperienza, che è un'esperienza positiva, come ha sollecitato il dottor Ballerini. Abbiamo bisogno anche di esempi positivi, ma Marco forse voleva raccontarci? Voleva darci un suggerimento? Sì, volevo dare un suggerimento a tutti i giovani che sostanzialmente che stanno studiando e che magari si dedicano esclusivamente allo studio. Consiglio loro di magari trovarsi un lavoretto che possa essere sì estivo, serale, che proprio dia la possibilità di confrontarsi con gli adulti, con imprenditori, con titolari magari, non so, di un qualche pizzeria, che gli diano proprio delle pillole magari di saggezza, di piccole esperienze di vita che sicuramente sono molto molto utili nella ricerca del lavoro, perché vediamo tantissimi annunci di lavoro dove dicono: ah sì, abbiamo bisogno di tantissima esperienza, però se non ce l'ho dopo l'università è proprio molto difficile entrarci, ecco. Quindi un consiglio a tutti i ragazzi: trovarsi qualche lavoretto. Trovarsi un lavoretto, dice Marco da Padova, che ringraziamo per essere intervenuto a Cuore Denari. Ottimo, noi stiamo andando peraltro verso la chiusura, qua ridendo e ballando abbiamo terminato il nostro programma, per cui grazie a tutti per i vostri suggerimenti concreti. Adesso vi gireremo tutti i curriculum che ci arrivano nel pomeriggio e vediamo se riusciamo a diventare un po' un portafortuna di questi ragazzi, nostri ascoltatori. Che grazie ci molto a Luigi cuore. Ballerini, che è stato con noi, a Massimo Ferlini, vicepresidente della Compagnia delle Opere, a Federico Vione, amministratore delegato di Adecco, Pietro Lacorte, Laura Vanossi e Marco Lombardo. Voilà, noi torniamo domani. Buona giornata.